con Enrico Di Fabio per parlare di un progetto di spettacolo intitolato Circus. Enrico, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie, grazie, benvenuti a tutti. Allora, ci racconti un po' di cosa si tratta? Dunque, Circus è uno spettacolo nato dall'esigenza di una compagnia che si chiama Four Garden, che è composta da 4 attori bravissimi che appunto mi hanno chiesto di scrivere uno spettacolo su determinate tematiche. E appunto abbiamo scelto il circo come posto dove succedono tante cose, ma anche come specchio della nostra realtà, anche se è un po' banale come potrebbe sembrare, il circo come posto dove viviamo, è un circo la nostra città, il nostro paese e tutte le nostre vite che facciamo. E parla della chiusura improvvisa di questo circo e quindi delle persone che sono abituate al circo, che hanno vissuto lì da sempre perché ci sono nate, e si ritrovano proiettate nella realtà. Naturalmente la chiusura del circo avviene per maltrattamento degli animali in generale c'è questo scontro tra le vecchie generazioni che non lasciano spazio alle generazioni successive, e questo un po', insomma, i proprietari del circo sono attengono ad una vecchia generazione e quindi però sono molto molto restii a lasciare il loro potere, sono tutti imparentati tra di loro, sono personaggi quasi estremi tutti, perché hanno vissuto un'altra realtà, un altro mondo, quella del circo. Sì, sì, sì. Senti, questo spettacolo andrà in scena, se non sbaglio, a primavera, e per costruirlo è stata lanciata una campagna di crowdfunding. Esattamente, esattamente, una campagna di crowdfunding che è stata lanciata una decina di giorni fa, che vuole appunto un aiuto da parte di tutti gli appassionati del teatro, anche degli amici naturalmente, per cercare di fare un allestimento degno di nota, viste le condizioni appunto in cui siamo partiti. Non abbiamo una grossa produzione e quindi ci interesserebbe fare uno spettacolo potente, senza grossi mezzi, però farlo in maniera piuttosto tranquilla, insomma. Okay. E appunto lo spettacolo si chiama Circus e si può trovare su internet, se si cerca i riferimenti, adesso non me li ricordo del crowdfunding, però insomma sono basta cercare. Ok. Scusami? Basta cercare online, basta Four cercare Garden online e Circus. Si dovrebbe trovare anche su Facebook, comunque c'è la campagna, insomma, che è stata lanciata. Benissimo. E niente, lo spettacolo è fatto da 4 attori veramente eccezionali, questo è degno è da dire, che sono appunto Barbara Abbondanza, Serafino Iorli, Lucia Ciarda e Patrizia Bollini. Patrizia Bollini, che è una nostra vecchia conoscenza, vecchia e cara conoscenza, tra l'altro ultimamente abbiamo proposto il suo Finisce per Acqui in certo. Radio, è venuta a farlo proprio dal vivo in studio. Allora, io ti direi un abbraccio, un in bocca al lupo, e ci sentiamo magari quando starà per debuttare. Va bene, grazie mille Federico. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio a te, ciao ciao.